un poco più complicato, ma comunque adesso finirà, per giugno finisce questa storia, poi dal prossimo mese ancora sarà diversa la situazione. Vado quando mi pare, mi piace, vado direttamente all'ufficio e ciccia, e funziona così. Ma comunque, vabbè, dai. Diciamo che mi hanno tolto la possibilità di muovermi la mattina come ho fatto sempre da un bel po' di anni a questa parte. Avanti, Natalino. Sì, infatti, una cosa che non puoi fare, no? Che li passo tutti sarrati, macello. È per quello che non ti muovi. Se no, se erano stati aperti i bar qua da queste parti, saresti salito, ti avresti preso il cappuccino al bar come facevi sempre, invece va, cosa vai? Appunto, tu già lo sai, tante volte ci siamo incontrati, ci siamo al bar, per cui non già lo sai quali erano le mie abitudini. La mattina, cappuccino, una pasta, due pasta, dipendeva dalla voglia e così via. Due chiacchiere, incontri un amico, incontri l'altro, se devi prendere qualcosa per casa, o frutta o qualcos'altro, un negozio al supermercato, la prendevi e così via, oppure al mercato. La mia giornata era quella, e poi la sera magari difficilmente uscivo, però la mattina uscivo da presto, dalle 9 io ero già a Sassari praticamente, chiamiamolo così perché di solito abbiamo l'abitudine di dire di punti a Sassari, ma diciamo per distinguerci, no, sto andando a Sassari, non per dire sto andando in città, che sarebbe più corretto, no? Però non la va. L'abitudine era quella e ciccia, ecco com'è la storia. Avanti, qua. Sì, ma infatti di punti a Sassari cosa non è che siano molti discorsi da fare. Gappa, sì, ma anche i bar sono già aperti, tantissimi hanno aperto, solo da sporto, pure te lo danno e lo bevi fuori nel tavolino. Però il 18 aprono tutti i bar, chiaramente non si potrà entrare tutti in massa come prima, però puoi entrare dentro il bar, prenderti il caffè, mantenere la distanza di sicurezza, fare igienizzarti le mani prima di prendere la tazzina, cioè fare queste cose che servono per la nostra salute, però il bar aprono il 18. Penso che dal 18 si riprenda la normalità, capito? Sugani è abituato a stare fuori, non si può stare fuori dal momento che c'è. Poi sei giunta tutte le cose, tutto il protocollo che ti hanno messo in testa da quelli del governo, eccetera. Dice soprattutto gli anziani devono stare più attenti perché dice è rischiosissimo, il contagio è più facile a prenderlo che per un giovane. Tutte queste storie, sai, ti hanno intimorito anche, e dunque allora prendi tutte le precauzioni, e in questo periodo esci più poco possibile da casa, e allora ecco che siamo ridotti a questa situazione, a questo punto. Vabbè, comunque speriamo che passi in fretta. Vai, Natalì. Sì, infatti, perché ha altre patologie, molto pericoloso, perché ci mettono molto a portarti in rianimazione, è un casotto. E anche quello, Natalì, è il problema che ho avuto, e poi c'è questo fatto del contagio, insomma una certa paura c'è, perché c'è, inutile negarlo, perché sono fandomi quelli che dicono ma io non stimo niente, tu sei solo buffoni e basta, perché la paura ce l'hanno tutti, qualsiasi uomo nel mondo ha paura, ce l'hanno gli animali aggressivi, figurati se non ce l'ha l'uomo, ragazzi, perché un umano ha paura, ma voi scherzate, ma vai e lascia perdere. Ma per dire, no, come la situazione. E allora ho dovuto anche rinunciare a dei controlli, addirittura l'ultimo controllo che dovevo fare non l'ho potuto fare proprio perché loro stessi mi avevano sconsigliato, no, guardi, se ne viene lo facciamo il controllo, però se non viene è meglio perché è rischiosissimo per il contagio del virus, e allora hanno bisogno andato. E adesso vedremo un po' cosa succede, cosa vuoi che ti dica, dice lo chiameremo noi, e vabbè, ma chiamatemi, però speriamo presto. Vai, Cla. E vabbè, dai, anche mia moglie doveva fare una visita e te l'hanno rimandata. Ma è meglio, dai, la fai con calma, con tranquillità, senza bressa e senza nulla. Tanto non penso che ti cambi niente. è meglio così, Giulio, è meglio così, c'è meno affondamento, meno rischio e meno tutto. Infatti è così, proprio per il rischio, no? Ma loro stessi sono stati in gamba, perché ho telefonato, perché avevo io la prenotazione, ho telefonato sapendo quello che era successo, ho detto guardi, se lei viene noi glielo facciamo, quello che dobbiamo fare, però non glielo consigliamo. Ma cosa mi hanno mandato? Quanti anni ha? 68, e guardi, è rischiosissimo, no? Se lei viene, ripeto, glielo facciamo quello che dobbiamo fare, ma se non viene è meglio per il semplice motivo che è rischiosissimo, perché oggi tu lo sai, l'ospedale era tutto contagiato dal primo all'ultimo, figurati se andava in chi vivo, ma manco un sogno, e allora ci ho rinunciato, però ci dovrò andare. E ho detto, ma come faccio? Lo chiameremo noi, va bene, chiamatemi voi allora quando sarà possibile, tutto lì. Avanti Natali. Infatti era tutto impistato, mamma mia, in cardiologia dove ero ricoverato io, hanno spostato tutta la cardiologia, malati e dottori, tutti contagiati. Dimmi tu, io mi ho comprato anche il saturimetro per tenere sotto controllo la situazione. Basta che ti misuri la febbre e la saturazione del sangue, tu lo sai. A una dottoressa gliela salvata la vita, proprio il saturimetro. Lo so, Natalia, infatti io ho dato retta a quello che mi hanno detto loro, non ho insistito, vabbè, se mi state dicendo così, pazienza, vuol dire aspetterò a quando sarò chiamato da voi. Sì, non si preoccupi, perché noi abbiamo la lista non solo sua, ma di tutti i pazienti, per cui non è il solo, dice, che deve essere richiamato, sono in tanti, perciò non si preoccupi che già ci pensiamo noi a richiamarlo, va bene, certo, non è che posso cambiare io il sistema di lavoro che hanno loro. Vai, Cla. No, già ti richiamano loro, anche a mia moglie. Non si preoccupi, appena c'è la possibilità, l'elenco è sempre quello, capito? Quindi appena è tutto regolare, richiamano, non ce n'è problema. E appunto, aspettiamo e basta. Oh, io passiamo il tempo, un po' con il baracchino, un po' con il computer, un po' alla televisione, un po' qualche passo, adesso che è possibile lo facciamo anche nei dintorni di casa, le punti già è abbastanza grande, come spazio, magari mi avvicino ai miei fratelli, abitano due miei fratelli, abitano qua, stesso le punti, dalle parti di dove abita Walter. Anzi, uno abita addirittura di fronte, proprio a Valle, perché se vuoi immaginare, e l'altro lì stesso nei paraggi, e allora posso fare anche così, ed ecco che passo le giornate, il tempo in questo modo, niente di più. Vai Natali. Ecco, c'è stato un break a Valle. Ciao Natali, buongiorno. Buongiorno anche a Giulio, buongiorno anche a Claudio. Attori, abbassa la televisione. Chi troppo si intende? Sì, troppo, te la porti dietro proprio. Buongiorno a tutti comunque, va. Ciao Massimilia. Pur una bassa asciutta da Movito, da lo smettere, che è cucinello di Natalino, anche la pasta asciutta che ha messo sulla cucina per preparare il pranzo. Vero Massimilia? Sta ascoltando, ascoltando, 2 minuti proprio di ascolto ho fatto. Gava, anda bene, io appena finito tutto. Vabbè, meglio così, dai. E l'altra volta ti volevo dire una cosa, relativa a cosa era, all'antenna, tu avevi chiesto, che io poi in quel momento non sono potuto entrare, giorni fa, tu avevi chiesto un qualcosa riguardo all'antenna, che antenna era o forse la ringo, adesso non mi ricordo. Sì, la ringo, l'ho chiesto. Dove andava, in poche parole, quel filo là? Cosa volevi sapere di quel filo? E a che distanza andava, capito? Oppure non lo non so se bisogna metterlo così a occhio, buh. E beh, c'è la slitta, no? Vuole lungo 18 cm, il filo del fare 18 cm, e poi tu lo sposti, perché serve per le stazionarie quello, per regolare le stazionarie, cioè con l'aggancio dove va fatto il filo, al mollore, chiamiamolo così, dai. E lì serve poi, in avanti o più indietro per le stazionarie. Quindi vuole teso il cavo, giusto? Quel filo vuole teso a 18 cm? Il cavo vuole lungo 18 cm, vuole lungo quel cavo lì, però poi una volta che è agganciato, se tu l'hai messo teso, devi controllare le stazionarie. Se per caso le stazionarie non sono giuste, allora quando si sposta, no? Perché dove va collegato quel filo c'è un affare a tendita, chiamiamolo così, insomma un collegamento che puoi muoverlo più in avanti o più indietro, serve quello lì per le stazionarie. Ok, va bene, non è che mi interessi quella comunque, là. Ce l'ho dentro la busta, nuova, ma era giusto per avere un'idea, là. Avanti, qua. Buongiorno, Massimilia, mi hai ascoltato? Sì, mi ricordo, io l'ho piazzato a Mauro, ma questo filo era già attaccato, l'abbiamo messo, forse era già regolato, in stazione non ne avevo. Va bene. Tu Giulio ci avevi la stella, no? Quella della Sirio, cos'era? 8 radiali la tua? No, la mia era 16 radiali. Antenna eccezionale, qua, io l'ho tenuta con 30 d'anni, è eccezionale. Sembrava debole strutturalmente, invece no, era abbastanza robusta, anche lo stilo centrale, nonostante molto ma molto più sottile della Mantova Turbo, nonostante tutto era sempre bello dritto che sembrava una riga, sembrava tutto perfetto, il vento non gli ha mai fatto niente. La stella 16 radiali avevo, sì, della Sirio mi sembra che era, sì. La super stella, la stella normale è a 8 radiali. Io ce l'avevo 8, quella col bicchiere, con la bobina grossa, sì. È un'ottima antenna, no, a me me l'aveva un po' disintegrata, ma era vecchia, era molto vecchia la mia. Io avevo messo la Mantova Turbo anch'io. Va bene, sì, un'ottima antenna quella. E strutturalmente non è come la Mantova, però secondo la premontata già regge bene il vento. Piega ma non spezza, dai. Avanti Natali. E un attimo che stavo parlando con la 50. La bassa per appena. Andiamo a abbassare, mi hai regolato il dubito. Sto usando l'MB più 5. E adesso mi sono messo in cuffia là per non disturbare qua. Mi sembra un po' troppo forte. Va bene, lasciala così. Similia, come lo senti questa MB più 4? Bella è, bella la radio, molto bella la Natali. E gli ho tolto quel coso che c'ha la capsula, quell'affare di ferro, no? E poi gli ho messo il cottone. Un'altra guba, hai capito Natali? E quell'affarino ti strozzava la modulazione proprio, capito? La cassa. E vabbè. E gliel'ho praticamente imbottito di cottone e tolto quell'affare lì, non gli ho fatto altro. Cappa, va bene. Allora, un'informazione per Giulio. Io ho la Sirio 2008, quella 8 radiali, Giulio. Allora, la lunghezza com'è? Quanto deve essere? Tu sai qualcosa? Se è 5 ottavi, se è 5 ottavi la Sirio dovrebbe essere intorno ai 6 metri e 10, una cosa del genere. Quella che avevo io perlomeno era così, però io avevo i radiali da 60 cm d'uno lunghi, erano 16 radiali, se a 8 magari saranno un po' più lunghi i radiali, questo non te lo so dire, ma suppongo di sì. Allora io, siccome l'ho procurata questa antenna, là, diciamo che è un relitto alla fine, l'ho rifatta rinascere. Allora ti spiego, il radiale suo originale è 1,35, ok? Però siccome erano tutti spezzati, tutti storti, io li ho accorciati tutti a 1,20, ok? Sì, e vabbè, funzionano bene lo stesso, non c'è problema, è un piano di massa intanto. Certo, sono stati calcolati magari per la lunghezza fisica dell'antenna, però se non si comporta stazionario, ma non credo assolutamente, dovrebbe andare bene ugualmente, anche se sono più corti o massime di anni. Guarda, secondo me l'unico rompimento di scatole di questa antenna che si tala dall'ultimo stilo, come un'antenna veicolare, là. Molli la brugola, e sollevi o abbassi, l'unica cosa è quella. Sì, è vero, infatti bisogna farlo quando se ce l'hai all'altezza dell'uomo, perché sennò come fai a... È un lavoraccio veramente, non è semplice calare l'antenna. Così, a differenza della mantova turbo o della mantova altre, che c'ha quell'anello sotto, quello lì, io me lo portavo, ad esempio, la mantova ad altezza uomo, avendo il tubo telescopico, e lì ci potevo lavorare tranquillamente, allungare o abbassare quella fascetta che c'ha l'anello, che è all'incirca dalla base, da quella calotta nera, era all'incirca 5 cm giusti in altezza al bordo di sotto, perché la fascetta è larga all'incirca forse 3 cm, perché al bordo di sotto di questa fascetta era 5 cm dalla base, cioè dalla calotta. Ehi, ho capito, ma io non so se... Allora, scusate un attimo il ping pong. Allora, il 6m10, perché io ho proprio il catalogo di questa antenna là su PDF. Allora, un catalogo dice 6,10 e l'altro dice 6,20, però non so se 6,20 è, diciamo, dall'inizio, lasciando perdere il bicchiere quello di plastica, dall'inizio lì dall'antenna 6,20 o 6,10, oppure devo calcolare anche il bicchiere? No, io intendevo lo stilo solamente, dal bicchiere in su, perché il bicchiere è più di 10 cm, se no sarebbero oltre i 6,20. Il bicchiere è quello di vetro, come ce l'avevo io, grosso, abbastanza grosso, ed è di più di 10 cm la testa. Per cui io mi ricordo di aver misurato dal bicchiere in su 6,10 m. 6,10, allora già è così, va. Ed è una 5 ottavi, così. Sì, 5 ottavi. Tiene, in poche parole, tiene 1000 watt continui e 3000, diciamo, di piccola. Sì, un'antenna che riesce a resistere parecchi watt, parecchi, ma veramente tanti. Del resto, ripeto, io ce l'ho avuta una 30 anni, ma devo dire che sono stato soddisfatto, fin quando non ne sono caduti quasi tutti i radiali, perché alla fine l'ho cambiata quando radiali ce n'erano, mi sembra, 3, 4, non di più, ed erano lunghi tutti 70 cm, e poi li avevo dati, quei radiali con l'antenna completa, li avevo dati a Lucca, per fare esperimenti, eccetera, per fare altre antenne, non so, magari per i 2 metri, non lo so a cosa ne ha usato, tutto lì. Bene, avanti qua. Ehi, a quando riprendi tu Massimiliano, se vuoi, se devi rispondere, già sono qua, io non c'è problema. No, tranquillo, qua, io non ho... Adesso la voglio tarare, vedere un pochettino, là, e vedere un po'. A quanto mi ha detto Fabrizio, va molto bene come tipo di antenna, anzi, forse c'ha qualcosina in più anche della Mantova, anche se sembra un'antenna un po' inferiore. Una bobina lo finisce mai, allucinante, pesante, come il pezzo pesante è sotto alla fine, poi il resto dell'antenna è leggero là. Vabbè, la metterò e poi vediamo un po' cosa succede. Certo, Massimiliano, infatti lo stilo di quell'antenna lì è di 7,10, che poi vanno aggiunti i centimetri della bobina, tutto sommato magari diventa 6-7 metri in tutto, perché la bobina fa parte della lunghezza fisica dell'antenna stessa, ecco, come oltre al fatto che magari era anche controcircuitata, però quella bobina fa parte della lunghezza fisica dell'antenna. Vai, fai girare per il Natalino dopo. Sì, va bene, dai, vai Natalino, riprendi. Sì, siamo in Oghe. Vabbè, dai, io vi saluto che devo fare qualcosa qua, se no non ne cavo bene, se sto parlando al baracchino. Va bene, diciamo che l'ho tutta carteggiata, perché era uno scempio solo a vederlo, là. Niente, gli ho aperto tutto il bicchiere, ieri l'ho tutta smontata, tutta pulita, gli ho tutto quanto pulito la carica, una bella soffiata, l'ho fatta diventare, diciamo, nuova, là. Adesso bisogna vedere com'è. E com'è? Te l'hai ristrutturata, te l'hai pulita tutta, praticamente l'hai fatto una ristrutturazione totale, quando controlli che i contatti siano tutti buoni, tutto a posto, tu provatela col tester prima di metterla sul palo e così si è sicuro che funziona, problemi non ne dovresti avere assolutamente, nella maniera più assoluta. Ecco come è un po' anche come la Mantova Turbo, lo stesso, la Mantova Turbo è 6,90 m, però dentro fuori dalla carrozza c'è una bobinetta, ma una bobinetta piccolissima con filo sottilissimo, che anche quello fa parte della lunghezza fisica, che poi tra l'altro è la bobina che serve per cortocircuitare il polo caldo con la massa, per la corrente elettrostatica, no? In caso di fulmini eccetera eccetera. Però alla fine l'antenna è sempre quella, per sapere quanto è di lunghezza d'onda devi fare 11 metri diviso 8, e ti dà, tanto per fare un esempio, 1,50 m, mettiamo, no? Tu prendi 1,50 m, 1,50 m, 1,50 m, così, no, ne prendi 5, li metti insieme e moltiplichi, quanto fa? 7 metri ad esempio, quello sai che è 7 metri perché vuol dire la 5/8. No, va bene, sì, quello già lo sapevo, ma comunque questa è una 5/8, non è mezz'onda, un quarto d'onda, è una 5/8. Sì, ma è così, è vero. Sì, è vero, avevano fatto anche quella autoradiale, sì, me lo ricordo benissimo, però, ripeto, quella 16 radiale, forse l'hanno fatto per incrementare un po' di più il piano di massa, anche se erano più corti, però hanno recuperato il fatto che l'abbiano fatti più corti, l'hanno recuperato nel numero come massa, tutto lì, sicuramente così, in massa immediata. Guarda, ti ho mandato delle foto, allora, per farti capire, i radiali agganciano così alla, diciamo, alla base, là. Cosa ho fatto io ieri? Siccome ho spezzati all'interno, ho preso il trapano con la punta giusta, ne ho tolto proprio tutto il radiale dall'interno, fino a arrivare al punto suo giusto, tanto quando passa la punta lo leviga pure, no? Lo pulisce bene, poi ho pulito bene il radiale, l'ho inserito dentro, gli ho fatto un bocchettino, anche se teneva, perché l'ho stretto un po' con la morsa e tenevano già, però gli ho fatto un buchettino, là, diciamo, gli ho messo una vite, e poi tutta quella parte lì l'ho tutta vulcanizzata, così magari un po' più strutturale, tiene un po' di più, là. Sì, bella, sembra anche nuova abbastanza, vabbè, tu mi stai dicendo che l'hai pulita, va benissimo, hai fatto bene, Massimiliano, a recuperarla, perché ripeto, è un'antenna che rende anche molto ma molto bene, te lo posso assicurare, perché io ce l'ho avuta tantissimi anni, e io quando fino a 4 anni fa più o meno, là, all'incirca, adesso di preciso non lo so nemmeno, non me lo ricordo, forse 5, là, ce l'avevo, ripeto, alla fine era diventata quasi nuda di radiale, nuda quasi, perché ce ne sono rimasti 3 o 4, e nonostante tutto funzionava benissimo, le stazionarie erano sempre quelli giusti, 1 e 1, 1 e 2 massimo, eccetera eccetera, e allora avevo, in quel periodo avevo l'RG8 come cavo, avevo tantissimi anni, che poi alla fine, dopo tanti anni, si era spaccata l'isolamento, si era spaccata, io me ne ero reso conto quando sono salito sul tetto per fare i lavori eccetera, che era spaccata, l'ho aperta, gli ho dato una pulitina così sulla carta, perché era tutta ossidata, e poi l'ho nastrato bene, ti dirò che l'ho continuato a tenerla per qualche annetto, sempre così, poi alla fine ho cambiato antenna, ho cambiato anche cavo, dunque tutto lì, ho Massimiliano. Positivo, va bene, dai, vai, Claudio, riprendi. Ehi, sì, l'ho avuto anch'io con l'antenna, va bene, però io avevo quella 8 come quella di Massimiliano. È l'unica cosa che gli avevo cambiato, erano i cavallotti, avevo messo i cavallotti un pochino più grossi, e gliel'avevo messi in una faccia io non si dà per farti capire quelli sono per chiave da 10, io li avevo messi per chiave da 13, capito? Avevo allargato i fori e avevo messo i cavallotti per chiave da 13, da 8, perché era, insomma, era, mi sembrava un po' più robusta e l'avevo usata per un po' di tempo. Poi quando sono andato via a Pasqua l'ho montato la mantova nuova e quella l'avevo regalata, non mi ricordo manco chi. Sinceramente parlando non mi ricordo manco a chi, e funzionava benissimo, vabbè, le 5 tale funzionano tutte bene, ma ci vediamo poi, non avevamo 3 kW noi in ampiezza modulata, in M, possiamo usare qualche linea retro da 400-500 W, quindi li porta benissimo. E quello Giulio, il sistema vuole la mantova, la mantova c'ha l'avvolgimento esterno a filo e quella c'è una bobina di rame, però è fatta veramente molto bene. Peccato che gli elementi siano un po' più fini, ma comunque fa il suo lavoro, già va bene, dai, piazzatene, vedi un po'. No, e allora diciamo che questi qui cavallotti sono già come chiave 13, capito? È abbastanza robusta sotto, allora c'aveva la bobina all'interno, era a caso completamente verde, capito? Verde completamente, sai, il rame quando lo lasci fermo che non va, no, che non è più lucido e c'ha quel verdolino con la patina sopra. Io ieri quella gliel'ho tolta tutta, a me non mi interessa, non l'ho fatta lucida, già l'hai visto. E poi ho preso questo cavo, il 223, guarda, io credo che fosse così, il polo caldo è cavo unico, rigido, ma è bello, un bellissimo cavo, c'è una bella calza. Come la Camille, anche la Camille c'è cavo rigido. La calza bella grossa, doppia, sono cavi buoni quelli, sono cavi che facevano prima, va di più. È fatto bene a pulirla perché lavora lì l'antenna, quella deve essere bella pulita, lucida, poi ho messo il bicchiere, sotto il bicchiere avevo fatto una striscettina proprio leggera di silicone, capito? E poi ho messo il bicchiere dentro, perché c'era una guarnizione ed era usurata. E va bene, ci vediamo. E te l'ho già detto, è un'ottima antenna, io l'ho avuta e funzionava bene. Poi l'avevo tolta, quando sono andato via a Pasqua, l'ho messo la mantova 1, che è questa che ho. Quindi sto parlando di 7-8 anni fa. Capito? E l'ho regalata, ecco che l'ho regalata, l'avevo regalata a Mario Babbo Natale, che se l'aveva montata lì quando è andato a abitare alla Teroggi. Poi non so se l'ha tolta o se ce l'ha ancora Mario, non so, l'avevo regalata a Mario. E Mario mi aveva regalato una direttiva a tre elementi per la 27, che poi Marco Scorpio me l'ha modificata per i 10 metri, che ce l'ho ancora. Sì, avevamo fatto sto cambio. A Mario Babbo Natale l'ho fatta. No, ma il cavo, attenzione, Claudio, il cavo non è grosso come il 213, è come l'RD58, però c'ha una calza allucinante e il cavo centrale che è molto grosso anche se è rigido, capito? Sì, è un X58U, dai, e quelli a... Col centrale in rame rigido, ti ho detto come quello che c'ho io, però il mio si chiama Camille e c'è il cavo centrale rigido, non è più sfidazzato, capito, come facevano un tempo. Va bene, piazza la maschiglia, vedi un pochino e poi vedi un po'. Stavo dicendo, poi ripassi a Giulio, sto usando l'MB più 5 col Polmar, c'è il B300 agganciato, però è in seconda marcia, 70 watt. Va bene, cazzo, c'è 9,25 qua. Ascolta, metti quinta marcia. Adesso aspetta che mi va a alzare. Allora, così. Così al massimo. No, così è satura. E così? Così no. Così è in quinta marcia. Così è buona la radio. Quanto mi sta dando così? L'ho letto, 120. E non andava bene. Che voglia. E non è satura la modulazione. Giulio, da te. No, non è satola, va bene, quando l'ha messa al massimo sì, era un po' satola, ma adesso no, uno scatto in meno, va bene, qua, così, dal massimo uno scatto in meno. Sì, vabbè, ma non serve niente, lo rimetto come era. Sì, così era. Facciamo così, tanto quando serve, magari dai qualche scatto in più, però così già va bene. Ma no, lo sai cosa dovresti provare, Ocla? Attaccarlo all'Elbex che c'ha i watt regolabili, capito? 747 te lo metti su quello lì, B300 te lo metti sull'Elbex. Non lo dare io la qualcosa, tanto cosa. No, stavo scherzando. No, l'ho attaccato stamattina, non sapevo cosa fare, gli tesci l'attacco, vedi, e lo lascio. Anzi, adesso lo rimetto come era prima, già va bene. Per fare due chiacchiere già va bene, dai. Cinquantina di watt, 60 watt, seconda marcia, va bene. Batteri le seconda sul nero, tanto. No, lascio. Terza marcia, 70 watt, già va bene. Giusto così per questa radio, perché va molto bene sta radio. Va veramente bene, vi ascolto, una cannonata. Oh Giulio, non mi ricordo. Tu l'hai avuta questa radio, io l'ho avuta lo stesso. Alla fine della radio c'è scritto Delta Tune e c'è un segno centrale, io ce l'ho centrale, poi c'è meno e più. A cosa serve quello? Quello lì serve per l'ascolto, praticamente come la NL, più alto, più basso, tutto lì, niente di particolare. Ah ecco, anche lì volevo fare una modifica io. Volevo fare una modifica. Cambiare il potenziometro in quell'ultimo spazio lì e mettere la potenza regolabile, perché c'è il trimmer, ma si vedia, già si può abbassare la potenza, c'è il trimmerino per abbassare e aumentare la potenza. È buono, fare mettere 120 cavalli. Ehi, pensiamoci, sto pensando veramente, perché una radio è eccezionale. Ha una ricezione, una trasmissione favolosa. Sto usando l'MB più 5 che mi hai regolato tu. Ogni volta mi ascolto in cuffie, vabbè, questa voce mia è allucinante, ma no. Non ascoltandomi bene, sì, la sento a differenza dal 60, dagli altri microfoni. Però c'è una modulazione bella corposa. Sì, già va bene, la voglia. Va benissimo. Vabbè, Giulio dici a trasmettere il gorro di Rue. Cosa devo trasmettere? Cazzo, ne ho provato mille di microfoni, sempre uguale a modulazione, c'è un valuto. Se vai una volta, capita, io non lo so, ma ne l'hai comparata? Al supermercato l'hai comparata questa voce? O a Porto Torres, visto che sei di Porto Torres? Io non lo so, ma che questa voce che vai tu è straordinaria, veramente. Incredibile, sì. Per quello che gli ho consigliato Massimiliano, prova a vedere, a usare un collo di bue per vedere se cambia, se non altro, un po' di timbrica, no, nulla da fare, sempre precisa, sempre precisa, che ti uomo che la bubu. Vai Massimiliano. Sì, vabbè, già c'è bene con tutti i microfoni alla fine, là. Allora, c'è un, per farvi capire, no, su Facebook, c'è un... HB23 col microfono suo originale, 50 euro. HB23 ce l'ha Giulio, il microfono originale dell'HB23 ce l'ha Gigi Vulcano, infatti me l'aveva detto, se lo volevo non ce l'ho mai sceso a prenderlo Giulio, quello bianco con la cassa nera, e l'attacco a 4 punte o a 5 punte, capito? Però c'è sicuramente da cambiare il connettore, perché io ogni volta che usavo quell'HB23 andavo e mi iniziavo il microfono, allora l'avevo fatto modificare a 4, capito? Però mi sa che me lo faccio dare da Gigi e te lo do, perché ce l'ha lui quel microfono, gli ha dato un sacco di microfoni, gli ha dato Giovanni Camposanto, mi ha detto. Ok qua, vabbè, ma intanto bisognerebbe cambiare anche lo stilotto, perché prima era a 5 punte, adesso è a 4, per cui va bene, comunque, ma ho visto che si accoppia molto bene. questo MB4 va perfettamente bene, non c'è problema. Adesso uno di questi giorni, quando ne ho voglia, faccio lo spessore anche per la Sadelta ecco Master Plus. Voglio vedere come esce con quello, così, perché io faccio sempre gli spezzoni, no? Perché lo spinotto del microfono non lo cambio mai, in modo che lo posso utilizzare in qualsiasi, eventualmente in qualsiasi baracchino. Allora faccio sempre gli spezzoni, e ogni baracchino ha il suo spezzone e ciccia, e va bene lo stesso, perché senza fare... Intanto mi è più comodo perché diventa più lungo, no? Il filo, sicché me lo posso anche spostare, eccetera, eccetera. E poi anche per passare il tempo, in poche parole. Vai, Massimiliano. Sì, no, lo stavo guardando l'altro giorno, sì, infatti il microfono è bianco, capito? E anche messo abbastanza bene, però vabbè, a me non mi devono piacere a occhio le radio, va, capito? Anche se escono bene, però poi anche l'occhio vuole la sua parte. Va bene così, dai. Vai Natalia, ci sei, sto mangiando stai. Beh, oggi Natalino è già di girendia. Natalino dovrebbe essere ai fornelli o alla graviglia. va bene, vabbè, è mezzogiorno 10, per cui è l'ora anche di preparare il pranzo, già lo credo. Sì, ma è così, dai, comunque. Poi è pesante questo HB23, ma cosa c'è dentro? Qualche gettato di cemento armato c'è, io non l'ho aperto, ma ci deve essere qualche gettato di cemento armato, che è pesante che è un trono, guarda. Un baracchinetto da niente, di piccolissime dimensioni, ma è pesantissimo dentro. Quelle sono radio buone, capito? Quelle sono radio buone. Quelle sono quarzate, giusto? Suppongo proprio di sì. Io non l'ho aperto, dunque non lo so, però suppongo di sì, perché essendo un vintage così, allora erano tutti quarzati, erano quei baracchini. Infatti dei quarzi ne ho ancora qualche cosa, oh? Non so, magari in questo momento non ve li ho piccati, però ce li ho, perché allora, quando avevo soprattutto il primo baracchino che avevo comprato, il primo, che poi era il secondo che ho avuto, era 23 canali, era l'Inoichi, e compravo ogni tanto un quarto, quasi uno ogni settimana, compravo i quarti per cambiare i canali, perché allora c'era il problema che c'era tanta gente, sai, e allora per sfuggire a certe persone cambiavamo i quarti, cambiavamo con amici di allora, per sentirci anche sul canale 45, per dire, no? È così che facevamo, o Massimiliano. Sì. Ma quello basta aggiungere dei quarti e fanno altri canali, e va bene. Anche quello che sta usando Claudio mi sa che sia quarti, Così è Claudio. E non ti dico già messo stesso, un attimo rimane. Perché gli ho messo le lampadine celesti, molto più bella. Sia nel potenziometro dei canali, no? E nello smitter e nell'orologio, cioè tutta celeste, bianca non mi piaceva. Ho messo i led che me li aveva dati Gigi, lo stesso già con le resistenze attaccate, molto bella adesso, mi piace molto di più. E l'ho aperta Massimiliano, siccome ho comprato lo spray per contatti, aiuti tu. Adesso le pulisco anche i quarti, ma sono nuovi, me li ha messi tutti nuovi Gianni Capri 2, no? Beh, ne rivolgo la prima serie, pulisco tutto, vado a ripiazzare il gatto del Bongare in vescio. E allora erano su 10 ieri mattina, Edward Franco, Giulio Gonfranco. Cazzo, andavo a chiamare, non mi sentivano. Giravo e li sentivo un altro canale, a voi sentivo un altro. Ha già fatto un casino Gesù Cristo. Meno male che Gianni mi ha dato lo schema, no? Con tutti i numeri, e quindi li ho tolti tutti, li ho rimessi tutti in linea. Capito? E infatti mi ha detto proprio, ed è andato tutto bene, adesso va bene, perché prima trasmettevo all'ora, ascoltavo le 10, trasmettevo le 10 ed ero nell'onda, è un casino. E comunque mi ha detto Gianni che senza fare nessuna modifica, lui ce li ha tutti quanti. E io sto pensando di fare dal canale 1 al canale 10 i quarti normali, dall'11 in poi i canali alti, oppure fare dal canale 1 al canale 20 normali, dal 20 al capito. Puoi fare 43, 45, 47, sono i canali che si usano di più. E oppure fare anche così, però cambiare tre quarti, eliminare quei canali lì, che intanto a me non me la fotti nuda di quei canali lì, 21, 22, 23, più c'è il 22 alfa, quindi c'è un quadro che ne posso mettere, capito? Ne posso mettere 4 di quarti alti, quindi al limite posso fare il 40... Fai il 40... no, per fare il 41, 43, 45 e 47, sono 4. Adesso dico a Gianni, intanto ci devo andare per portare il manuale dell'Alan 48, c'è anche lo schema, e me li faccio dare. Me li faccio dare, se no porto la radio e me li faccio cambiare, prima di fatto casino, di nuovo. Ed è perfetta, va, ed è a posto. Basta, quando sali ti porti la radio appresso e te li fai mettere, buono, fitto lì. Tanto noi trasmettiamo in quei canali lì, capito? Il massimo che puoi andare, ti puoi spostare nel 50, ma non ci va quasi nessuno. I canali che si usano sono il 41, 43, 45 e 47, quelli sono i canali. E te lo fai dall'1 al 20, li lasci normali, dal 20 al dal 21, 22, 23, 24, quelli lì te li fai i canali di sopra. E così che ti va la radio completa. Sì, faccio proprio così, faccio proprio così. Poi, come mi hai detto tu, se trovo una camera ecco da collegare, e c'ho anche il microfono normale, bello, il microfono normale è tipo quello che mi hai dato tu, Inuit, originale Inuit, che è dell'altra serie di questo, ma esce molto bello. Con una camera ecco va giù la radio modificata, il lineare c'è, e quando devo andare ai 45 posso usare questa, capito? No, va bene, dai, va bene, esce meglio del DAC, ho fatto le prove, esce meglio del DAC, vabbè, quella là è più, non lo so, però questa esce molto meglio. Vai Giulio. Ok qua, beh sì, sebbene sì, abbastanza, altro che... No, io facevo il gioco dei quarti lo stesso allora in quegli anni, perché giustamente, sai, allora facevo così e costava anche, mi ricordo che un quarto mi sembra che lo pagavo 5.000 lire, se ricordo bene, che se non era poco un quarto 5.000 lire, per cui la cuffia non era poco allora in quegli anni lì. E ogni tanto ne compravo uno e ne avevo messi da parte tutti i canali che utilizzavamo, io e gli amici di allora, e si andava avanti in questo modo. Si faceva la sintesi, si faceva, no? Che adesso non mi ricordo nemmeno com'è la sintesi dei quarti, ad esempio 38, tanto per fare un esempio, è 800, non mi ricordo se era diviso o meno, meno l'altro quarto di accoppiamento, e tiravo il canale, la frequenza del canale, e sapevi per dire che ti avanzava a, che so io, 27.075, ed ecco sapevi che quel canale corrispondeva al canale 10, si faceva così. Allora avevo tutte le tabelle, che ce ne avrò ancora, ma è dunque da Giubbuti, dopo tanti anni cosa ne sai, se devo finiscono le cose. Vai Massimiliano. Sì, è così. Allora però io avrei un po' modificato lì da te, capito? Nel senso che avrei ripiazzato quell'altro ripiano e avrei fatto, diciamo, la parte CB e la parte amatoriale. Secondo me è più carina anche da vedere. Cioè, da una parte hai tutta la roba amatoriale e da un'altra parte hai tutta la roba CB, capito? Ti metti un bel commutatorino con l'antenna, a tre vie, ti colleghi tra baracchinetti, carini, ci metti il DAC, ci metti quello, ci metti l'Elbex, un bel commutatore a tre canali, a tre vie, ti colleghi la manto, vai lì e gli altri radio te le lasci collegate con le altre antenne. E lì avrei fatto la parte CB, carina da vedere, con ognuno con il suo microfono, secondo me c'è una cosa anche bellina. Ma ci vediamo, non ti ricordi, tu già venivi spesso qua, hai visto che non riuscivo neanche a passare dietro la finestra, ad esempio a Digoglio, Anna, per pulire i vetri, per fare, per quello l'ho tolta l'altra base. base, ce l'ho su in mansarda, sono i piedi attaccati e tutto, ci metterò 5 minuti a attaccarla, perché sotto Giulio mi ha fatto la piastra, capito? Appoggio la piastra, appoggio i piedi, appoggio la piastra e le metto le viti come erano. Quindi non è un problema ripiazzarla, il problema è che non c'è spazio, così sto meglio, capito? Sto meglio. E non c'ho solo il dattino, Massimiliano, ti mando la foto di cosa c'è dentro l'armadio, io ce l'ho lo standard. C'ho lo standard che è grande quanto è questo, lo stesso 23 canali. È bellissimo, grigio, molto molto bella quella radio. Molto molto bella, c'ha tre strumenti un po' più piccoli di questo, però sono tutte e tre verdi, belli, molto bella quella radio, quindi posso mettere il DAC, posso mettere questa, c'è l'amplificatore grande, lo stesso da mettere a fianco di linea al DAC, c'è l'Elbex, già ce n'è di roba da mettere, però anche per lo spazio del computer come c'era prima. Massimiliano, è un casino perché poi non ho spazio, capito? Sto bene così, non voglio rimettere tutto come era prima, sennò è un casino di spazio, mi porta via molto molto spazio e a pulire i vetri è un casino. E allora puoi fare un'altra cosa, o la corci un pochino, oppure quel ripiano te lo fai modificare da Giulio e te lo fai tutto dritto, capito? Dritto come ce l'hai adesso, con l'altro pezzo te lo allunghi, cosa ti serve, altri 80, un metro, lo tagli a misura e te lo fai tutto lineare. Non c'è niente da modificare, la cosa che stavo pensando io, sull'idea tua appunto, infatti ne ho parlato anche con Giulio, è che non trovo i piedi più così color alluminio, capito? Questi piedi costano un sacco di soldi, di là Giulio, sono dei piedi particolari che si piegano, questa scrivania si abbassami, si piegano i piedi e la scrivania toglie il radio e si abbassa al muro, sono le cerniere tassellate all'altra parte, è fatta arrivare all'arte questa base. Stavo pensando però aggiungere due piedi e anziché legarla, fare la U, metterla sull'altra parete, capito? E fare una parete amatoriale come c'ho già, no? E l'altra parete mi giro con la sedia e l'altra parete è solo CB. Verrebbe molto bello perché poi in alto c'è la TV, quindi quella parte lì rimarrebbe solo CB. I cavi ci arrivano lo stesso perché dall'ingresso dell'antenna allungo c'ho gli spettoni lunghi, io anche da 1,50 m, quindi ci arrivano tranquillamente, li faccio passare sotto e se no allungo il cavo, non è un problema. Allora lì verrebbe un altro tipo di lavoro fatto bene, ma mettere la U così, quella base lì, come era prima, no, perché mi affaccio alla finestra, sto molto meglio così, Massimiliano, capito? Claudio, sì. Guarda questa radio a vedere, ti piace? Sì, questa va bene. Ma è al minimo mio, aspetta un attimo. Così a metà, guarda un po'. Va bene, bella forte. Che radio è? Guarda, l'MB4 che gli ho fatto la modifica a quello vecchio, guarda un po'. Una bomba, Giulio. Va bene, Natali, non c'è problema, l'MB4 è un microfono che si adatta praticamente a tutte le radio, per cui esce sempre bene, perlomeno io non ricordo di aver sentito un MB4 che uscisse male, ha copiato con un tipo di baracchino, esce sempre bene, basta che sia montato come si deve, problemi credo di non averne mai sentito da nessuno. Avanti Natali. Volevo sapere l'amplificazione come, se è forte, va? Sì, l'amplificazione è forte e allo stesso tempo anche dei picchi abbastanza buoni, picchi positivi abbastanza buoni. Cosa gli hai fatto? Il ponte dove ci sono quelle due resistenze? Eia, gli ho fatto quello. Gli ho fatto. Per vedere se amplificava di più. Ma è sul coso, sull'MB4, stiamo parlando dell'MB4, ma le resistenze le hai lasciate sempre collegate e ci sei passato sopra col ponte? Eh sì, le ho lasciate collegate, volendo si possono anche togliere. Sì, infatti passandoci sopra, mettendole così dirette, come se le avessi tolte, è uguale, non cambia niente. Appunto, passandoci il ponte da un capo all'altro della resistenza, è quello, sì, è quello la modifica che si deve fare nel MB24 per avere un qualcosa di più. Bene, bene, bene, avanti Massimiliano. Sì, a me non mi sembra la radio di prima, però come è la radio di il melegatto è capitina, cerca di capire, guarda il melegatto è bene, va già, va bene, abbassa la televisione bello pure, che ti stai portando anche la televisione appresso, che prende un meglio amplificazione, e già sta giù con peso, comunque è bella questa radio, bellissima. Va bene, il telefono di mia moglie, non è manco la televisione, va bene dai, che chiudo tutto, ciao, ci sentiamo dopo. Io che casino la radio, la tarì, capisci a me. Ecco. Va bene, hai visto una cigliata, l'ho mandato lo standard, adesso l'ho tolto da sopra e l'ho rimesso dentro l'armadio. Però c'è anche quello, e quello funziona. Quello c'è l'attacco a 4, lo stesso funziona molto bene. Avanti Becche. Gavino da queste parti. Un saluto, Claudio e Massimiliano. Ciao Gavi, ma sei ancora al laboratorio? Eia, sì, sto trasmettendo da lì. Anche Giulio c'è mi sembra, no? Saluto. Ciao Gavi, sì ci sono da un bel po', stiamo chiacchierando tutta la mattina, stiamo facendo la vita da pensionato, per cui non potevo mancare stamattina Gavi. Eia, Massimiliano, tu cosa ci fai a casa? Non sono andato oggi al lavoro, ho passato la nottata un po' così, no? Un po' avevo sempre bisogno dei mini andando in bagno, e quindi ero un po' sconvolto stamattina e gli ho mandato un messaggio e non ci andavo. Adesso mi sono un po' ripreso, ho preso un po' di quei fermenti lattici e da stamattina adesso mi sono un po' ripreso. Aspetta. Influenzano. No, magari era un po' disposto a mangiare qualcosa ieri notte, capito? E ha fatto accuscimi. Ci sono guccoide, te magnato. Lì già, non me ne hai voluto da me. Bravo, proprio guccoide, chissà. Mi ha fatto accusci, fracchiamato. Massimilia, è normale. Non ti preoccupare, ha fatto anche a me una roba. L'ha fatto anche a me. I lumaconi proprio, non le lumache, i lumaconi. Mani disintegrato. C'avevo il culetto come un bambino di appena nato, ragazzo, una cosa allucinante, mai vista in vita mia. Vabbè, può succedere. Ho preso due Imodium, mi sembra, e me l'ha passato. Ok, avanti giù. Sì, è la passione mia, i lumaconi, la passione mia, tra lumaconi e pulpi, è la passione mia. Io quando li compro sempre 2 kg, 2,5 kg, e praticamente me li mangio tutti io a casa, perché mia moglie, mia figlia praticamente l'assaggia, lo mangia neanche una gazzettina. E io non lo so, sono golosissimo di lumaconi e anche di pulpi, e mi piacciono molto. Va bene, dai. E pagisco che sono in graffelli. Avanti, Massimiliano. Sì, a me la fottidina, allora con Candu e muoio a pasta biera, come si dice. A me dico, grazie, mi abbassa. E Candu muoio, allora con muoio a pasta biera, usiamo in affutti. Se guardiamo anche queste cose, la pancia, cosa devi mangiare, alla fine non devi mangiare più nulla. Va bene. E tu, Gavi? Io mi ho sistemato con l'alimentatore, funziona perfettamente, la ventola è silenziosissima e ok. Non si accede da quella. Come qua? Ho detto che non si accede da quella ventola, lo sapevo che funzionava così. No, qua, quella ventola si accende quando sta assorbendo l'amperometro, capito? Dopo i 2 ampere si inizia a girare piano piano, poi secondo l'amperaggio che ha aumenta ancora di più, capito? Ma guarda, io ce l'avevo attaccato al 440 con l'alimentatore e ti dico che era molto più silenzioso di questo Laprox. No, non era veloce la ventola, era silenziosissima, proprio manco si sentiva. Quindi va bene, dai, direi messo a posto. Provalo Massimiliano, sei più silenzioso di quello che hai. Capito? Va bene. Va bene. Sì, vediamo, poi quando lo scende lo proviamo e via. Se no te lo porti su. Non ve ne è problemas. Sì, è molto silenzioso, rispetto al Prox è più silenzioso, indubbiamente. Al 50% di silenziosità in meno, ciao. Ciao Gabi. Ma sta girando a lei. Ho chiuso il tutto, come va, bene? Ciao Natalia, sì, già va bene, sì. Potrebbe andare meglio, ma ci accontentiamo. Ben ascoltato. Internet. Cappa, va bene. Guarda, è così, più forte. Un po' forte, Natalie. Se le bottiglie di bocco è rumore fatto, mettilo a metà, è più che sufficiente, va bene, bella radio. Cappa, ce l'ho anche lontano. Andare, dai, là. Mettiamoci tutto a posto. Un bel vento che c'hai appresso, capito? Cosa c'è, il ventilatore vicino? Qui sarà la ventola dell'alimentatore o del computer, boh. Se si butta in tutto il fatto, va bene, no? Kappa, kappa, ok. E cos'è questa cosa che mi ha mandato qua? Come uscivo io? Ehi, come ti sto ascoltando col Polman? Sono una bomba, Kappa, no, giro positivo. Va bene, ok. Vai Giulio, riprendi. Ok, Massimiliano. Ma è la mia ventola dell'alimentatore, molto si sente. Mi lascio un attimo la portante, ditemi se si sente molto. Ecco, vai Massimiliano. No, sì, si sente la ventola, ma quando parli la niente completamente, capito? Ma è normale, è una ventola dell'alimentatore, cioè non è che... Non è un'alternata, non è un disturbo, capito? È una ventolina, purtroppo, che questi microfoni ci portano dietro tutto, tutto lì. Sì, beh certo, quello sicuramente, no, ma pensavo che si sentisse un po' di più. Ah, vabbè, sono contento, dai. Non ce l'ho molto lontano, mi ce l'ho un metro lontano dal microfono, dell'alimentatore, per cui, perché qui dove sono io lo spazio è ristrettissimo, perché me la sono piazzata nella camera per essere isolato, visto e considerato che io la casa ha più livelli, perché se la dovessi mettere per dire nella sala o in cucina, poi ci sono i miei che guardano la televisione e parlano eccetera, e raccoglierebbe questo microfono, raccoglierebbe tutto quanto il QRA. Invece ho deciso di starmene qua nella stanza, nella zona notte, e così almeno chiudo la porta e sono completamente a silenzio. No, io disturbo loro, né loro disturbano me. Ho pensato di fare così. Va bene, avanti Gabi. Sì, penso un po' io col timer che c'ho, cazzo, mi porta tutto dentro, mi porta qua. E ho messo pure l'antisuffio all'interno. Vabbè, ci regoliamo leggermente il microfono, abbassiamo appena e via. Anche perché in effetti, ragazzi, quando devi parlare devi essere in una camera chiusa, pochi rumori, e possibilmente se l'alimentatore con la ventola a distanziarlo almeno un metro e mezzo, 2 metri, capito giù? Sì, capito, infatti è così, che poi io non ho mai pensato, perché io a disposizione ho tutta una mansarda, guarda, potrei anche farmela lì la stazione, che poi tra l'altro non ci sale mai nessuno, ci salgo solo io di tanto in tanto, e mia figlia per fare pulizia, per spolverare più che altro, perché non salendoci mai nessuno lì, cosa vuoi che metti di su, non ce n'è lì. cui si può immaginare, eppure non ho pensato mai di farmela indipendente in mansarda, però andrebbe ancora meglio, andrebbe, anche perché lì ho il terrazzo, dovrei aprire completamente la porta del terrazzo, ci sarebbe molta luce, eccetera, eccetera, per cui va, comunque va bene lo stesso, ho deciso così da tempo e sono rimasto qua. Avanti Claudio. Va bene. Comunque le radio sono belle tutte, i microfoni sono belli tutti, bisogna avere spazio. Io sono Renato qua. Quando ero al nono piano avevo una resega nel muro con i ripiani, ho fatto un bellissimo lavoro, eh. Mi ha dato una mano l'idea Andrea, che lui insomma, come falegname io, lo stesso come falegname già ne sapeva, ma ha fatto dei piani e mi ero organizzato veramente bene, avevo fatto Massimiliano tipo una cosa come avevi fatto tu in cucina, no? Quel mobile, gli sportelli sotto con i ripiani, sotto c'erano gli alimentatori, i cavi entravano da sopra.